giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 9 Gorizia e Gorizia, speranza in un'Europa ferita da nuove guerre, festa per la capitale transfrontaliera della cultura. Nel pomeriggio l'incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'omologa slovena Nataša Pirc-Musar. Gli interventi dei sindaci Ziberna e Turelu, un corteo artistico aperto dal Ministro della Cultura Giulia attraversa le città un tempo divise. Nella giornata della riconciliazione e a 2 giorni dal giorno del ricordo, imbrattata la foiba di Basovizza, sdegno bipartisan. La carta di Lorenzo allo Zanon di Udine, iniziativa sulla formazione al lavoro in sicurezza con gli studenti, l'attrice Ambrangiolini. La crisi in Germania è costata 515 milioni di euro al sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, caduta verticale in 2 anni. Walter Sivilotti, direttore artistico dell'Accademia Nonis, sarà a Sanremo come direttore d'orchestra, affiancando Simone Cristicchi. Un atto unico di parole e musica, Il sogno di una cosa di Pasolini, a Monfalcone oggi e domani, l'attore Elio Germano e il musicista Teo Teardo. 12:31 minuti, buongiorno da Daniele Lettic e Rita Micoli. Andiamo subito a Gorizia, Nova Gorizia, dove questa mattina è scattato il programma della giornata inaugurale della capitale europea della cultura. Alle 16 l'apertura ufficiale con i discorsi dei due presidenti, Mattarella e Pirc-Musar. La diretta su Rai 3 bis a cura della TGR. In diretta per noi c'è Antonio Di Bartolomeo. Mancano meno di 3 ore e mezza alla cerimonia istituzionale di inaugurazione della prima capitale europea della cultura trasfrontaliera. Si terrà alle 16 nell'iconica piazza transalpina, conosciuta dagli sloveni come Targa Europa e Piazza d'Europa. Uno spazio diviso esattamente a metà tra Slovenia e Italia che allo stesso tempo le unisce. Nova Gorizia e Gorizia saranno al centro di un gran numero di eventi per tutto l'anno. Il via alle 16 in diretta su Rai 1. Gli interventi, tra gli altri, dei presidenti di Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e Nataša Pirc-Musar. Mattarella è intervenuto intanto con un messaggio ai quotidiani del gruppo NEM, definendo le tue città simbolo della nuova Europa, un segno di speranza in un continente ferito dal ritorno tragico della guerra. Stamattina, in Piazza della Vittoria, il saluto dei due sindaci, Rodolfo Ziberna e Samo Turel, al termine del primo tratto del corteo trasfrontaliero partito dalla stazione, accompagnato dalle campane suonate da una 70ina di campanari. Tra poco, sullo stesso palco di Piazza della Vittoria, il ministro della Cultura Alessandro Giuli darà il via alla performance artistica con la sfera di pistoletto realizzata da ragazzi delle scuole. Alle 18 la cerimonia artistica davanti al municipio di Nova Gorizia, un gioco di luci che si preannuncia spettacolare, al quale tutti possono partecipare, e poi la festa prosegue fino a tardasera nelle due città e in Piazza Transalpina. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ci impegneremo a promuovere il riavvicinamento tra i nostri popoli, ha detto da parte sua la presidente slovena Pirc-Musar. Poco fa, come abbiamo sentito, gli interventi dei sindaci delle due città, Rodolfo Ziberna di Gorizia e Samo Turel di Nova Gorizia. Ma sentiamo un passaggio di quello che hanno detto, iniziando da Ziberna. Abbiamo mai assistito da anni a questa parte a un grande evento, una di questa natura, di questa portata, che abbia consentito a Gorizia e Nova Gorizia insieme di avere una tale visibilità, una tale conoscenza, non soltanto nei nostri paesi e non soltanto in Europa, ma anche oltre i confini europei. Perciò è una grande festa innanzitutto. E ora le parole del sindaco di Nova Gorizia, Samo Turel. Da duhu europskih vrednot. Nonostante quest'area porti i segni di un passato difficile e tragico, insieme stiamo dimostrando che si può coesistere e si può collaborare e si può perseguire uno sviluppo futuro insieme. Nello spirito di questi valori europei è stato concepito insieme il progetto della capitale europea della cultura e nonostante i dubbi iniziali il successo è stato portato a casa. E prima dei discorsi dei sindaci, alle 10 l'inizio della giornata era stato con un corteo transfrontaliero e variopinto partito dalla stazione di Gorizia. Gorizia così non si era mai vista, un corteo festante e colorato partito dalla stazione ha coinvolto migliaia di persone. 1500 i performer a comporre la sfilata aperta in testa dal sindaco Ziberna con la giunta e gli altri sindaci del Goriziano. A seguire le bande, gli sbandieratori, i gruppi folcloristici in abiti tipici. In strada ad applaudire le scolaresche in molti con una vista d'eccezione affacciati dalle finestre su Corso Italia, appesa su un balcone, una bandiera della pace. una grande emozione per chi più anziano difficilmente poteva immaginare da giovane una giornata così e chi con la figlia in braccio si augura un futuro luminoso per le due città, oggi una sola entità. Mano a mano che il corteo avanzava si aggiungevano altri elementi e crescevano gli spettatori. Davanti al Trgovski Dom si è unita la banda congiunta della polizia slovena e italiana. Tappa intermedia, piazza Vittoria, Travnik in sloveno, ad accogliere il serpentone verde isonzo, le campane a festa, lo scoppio dei fumogeni a simbolizzare le due bandiere nazionali e poi il saluto dei due sindaci Ziberna e Turel, di nuovo musica con il violinista Pierpaolo Foti, danzatori latinoamericani, il coro giovanile misto trasfrontaliero. Tanta l'energia per un'atmosfera unica, il primo giorno di un sogno che si sta avverando. Gorizia, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia. Due città di confine, unite nel nome della bellezza e della conoscenza. Gorizia, Italia e Nova Gorica, Slovenia, insieme Capitale Europea della Cultura 2025. Il racconto della TGR, dal piazzale un tempo separato dalla cortina di ferro, una storia di divisione che diventa esempio di convivenza e di collaborazione. Un territorio che cambia, sotto il segno dell'innovazione dell'Europa. Rai 3, ore 23:55. Storia di un confine. Uno speciale della testata giornalistica regionale. La scorsa notte però è stato imbrattato l'accesso alla foiba di Basovizza, monumento nazionale. Sentiamo. Trieste nostra, morte al fascismo, libertà ai popoli. Alla vigilia delle celebrazioni del giorno del ricordo, trascritte in lingua slava, tracciate con vernice rossa, hanno imbrattato l'accesso alla foiba di Basovizza. E poi ce n'è un'altra, proprio sotto la lapide, che riporta il nome del monumento nazionale. È solo un pozzo, parole in italiano, nel luogo dove, nel 1945, un numero imprecisato di corpi di italiani venne inghiottito, trucidati e gettati dentro durante l'occupazione jugoslava di Trieste. Sono stati gli addetti al sito, stamattina presto, ad accorgersi dello sfregio. Hanno avvisato le autorità. Dal comune l'invio di un mezzo per ripulire, ma lo spray non va via. Sul posto la polizia locale e la polizia. La Digos della Questura di Trieste, incaricata dei rilievi, sta monitorando i filmati della videosorveglianza per individuare gli autori del gesto. Insieme a loro i ragazzi di una scolaresca, ma anche l'assessore regionale Fabio Scoccimarro e la sottosegretaria alla pubblica istruzione Paola Frassinetti. Atteso sul posto in mattinata anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. In un momento storico in cui si aprono i confini e Gorizia e Nova Gorizia celebrano un nuovo, unico respiro europeo, le fratture del Novecento continuano a far discutere. Atto grave e intollerabile che offende profondamente la memoria storica del nostro paese e ancor più le vittime delle foibe. Ferma condanna arriva dal presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Anche la sottosegretaria all'economia Sandra Savino commenta l'episodio non solo un atto di vandalismo, ma un tentativo deliberato di minare la memoria e la riconciliazione. Non possiamo permettere che l'odio e l'intolleranza abbiano spazio nel nostro paese. Lunedì ci sarà la cerimonia del giorno del ricordo, alla quale prenderà parte il ministro della giustizia Carlo Nordio. Trieste, Francesca Jacot, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora l'economia e il lavoro. Manifestazione questa mattina a Trieste per richiamare l'attenzione sulle crisi industriali in corso in città, dalla Ublox alla Flex alla Tirso, e su quella che i sindacati hanno definito la desertificazione del tessuto produttivo triestino. Industria e futuro è lo slogan che questa mattina ha aperto il corteo partito da Piazza Oberdan. Una manifestazione promossa da FIOM, Film e Wilme, alla quale ha aderito anche l'USB, a partire dalla crisi che negli ultimi mesi ha investito Flex, ma a ricomprendere anche Ublox e tutte le vertenze industriali che negli ultimi anni hanno messo a rischio centinaia e centinaia di posti di lavoro a Trieste. Le ultime crisi sono infatti, hanno spiegato le organizzazioni sindacali, solamente la punta dell'iceberg di un processo di deindustrializzazione in corso da tempo. E così dietro i lavoratori della Flex hanno sfilato anche quelli di Ublox, Tirso, Varsla e Noway, il progetto che sta prendendo forma al suo posto nei capannoni di Sant'Orligo della Valle. E attorno ai lavoratori si sono strette le istituzioni, il sindaco Roberto Di Piazza, gli assessori regionali Sergio Emilio Bini e Alessia Rosolen, Confindustria Alto Adriatico con il presidente Michelangelo Agrusti, la Camera di Commercio con Antonio Paoletti, oltre a diversi partiti. Il corteo si è snodato lungo via Carducci, ha attraversato Piazza Goldoni e Corso Italia per concludersi in Piazza della Borsa con le testimonianze dei delegati sindacali. Il tema centrale è la richiesta di politiche industriali a tutela del tessuto produttivo per fermare la deindustrializzazione da parte delle multinazionali e per dire che Trieste non può vivere solo di turismo e di logistica. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Più danni all'export del Friuli Venezia Giulia dalla crisi dell'economia tedesca rispetto a quelli che potrebbero arrivare dalla politica dei dazi minacciata dal presidente USA Trump. A dirlo è la CGA di Mestre. Nel 2023 il valore delle esportazioni della regione verso il mercato tedesco è diminuito di 358 milioni, mentre nei primi 9 mesi del 2024, ultimi dati disponibili, la contrazione è stata di 157 milioni. Praticamente una caduta verticale. E secondo l'OCSE l'eventuale introduzione di dazi al 10% provocherebbe una riduzione in termini economici delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti di 3 miliardi e mezzo di euro, che salirebbero a 10-12 nel caso di un'aliquota al 20% per la regione. La contrazione delle vendite nel mercato statunitense potrebbe provocare nel primo caso un danno di 75 milioni di euro, nel secondo caso di circa 250. A 3 anni dalla scomparsa di Lorenzo Parelli, vittima di un incidente in un'azienda durante il periodo di alternanza scuola-lavoro, la Regione, in collaborazione con la famiglia, ha promosso un evento all'Auditorium Zanon di Udine. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio. Nell'Auditorium, questa mattina, anche l'attrice Ambra Angiolini. La carta di Lorenzo come appello permanente ad assicurare una sinergia tra enti di formazione e imprese per garantire ambienti di lavoro sicuri dove lo studente sia in una condizione di centralità. Il messaggio del presidente Mattarella, prima di volare a Gorizia, per la giornata di sensibilizzazione all'Auditorium Zanon di Udine a 3 anni dalla morte di Lorenzo Parelli, vittima di un incidente in azienda durante l'alternanza scuola-lavoro. Presenti all'evento Maria Elena e Dino, i genitori. Il presidente Mattarella ci è stato vicino fin da subito e anche nei vari appuntamenti che sono succeduti alla carta di Lorenzo lui ci ha sempre spronato e ha mandato i suoi messaggi di incoraggiamento e i suoi moniti, perché tutto sommato è un monito quello che è successo e che dobbiamo tutti, di cui tutti dobbiamo prendere atto. È una carta di valori in primis, ma comunque aiuta proprio a far conoscere questo argomento e proprio a trasmetterlo ai ragazzi che sono poi i primi destinatari. Giornata aperta da uno spettacolo teatrale formativo e che ha visto la partecipazione dell'attrice Ambra Angiolini, amica della famiglia Parelli. Ci piace l'idea del lavoro che spacca la schiena, perché se non si fa fatica non siamo orgogliosi, no, del lavoro. E forse è un arretaggio culturale che sta facendo dei danni. La carta di Lorenzo mette al centro lo studente con le sue fragilità e rimarca l'importanza della preparazione specifica di tutori aziendali scolastici e di percorsi formativi studiati assieme agli studenti. Dopo la sua sottoscrizione, in Friuli Venezia Giulia sono stati realizzati percorsi formativi che utilizzano anche la realtà virtuale, progetti che l'Ufficio Scolastico Regionale auspica vengano adottati su tutto il territorio nazionale. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Un incidente in montagna e tecnici del soccorso alpino di Cave del Predile e quelli della Guardia di Finanza sono stati mobilitati con l'elisoccorso per un escursionista scivolato lungo il sentiero 664 che sale al bivacco Luca Vuerich nel gruppo del Montasio. L'incidente a quota 1800 metri. Durante la salita l'escursionista, un giovane carnico del 2001 ben attrezzato con piccozza e ramponi, è scivolato cadendo in un canale 5 metri più sotto rispetto al punto in cui si trovava, procurandosi contusioni e forse una frattura ad un arto superiore. Il ferito è stato portato in elicottero a Tolmezzo e il compagno che era con lui ha completato autonomamente il rientro. E adesso andiamo a Pordenone per parlare della raccolta in corso per il banco farmaceutico. Fino a lunedì si possono donare medicine da banco acquistandole in 190 farmacie aderenti della regione. Donare un farmaco a chi ha bisogno. Sono in corso fino a lunedì 10 febbraio le giornate di raccolta del farmaco, iniziativa benefica del Banco Farmaceutico con il supporto di volontari e farmacisti. In regione le farmacie aderenti sono 190. Livio Stefanuto, responsabile giornata di raccolta del farmaco per Pordenone e provincia. Il Banco Farmaceutico è un'opera di carità che è nata 25 anni fa e che nella nostra regione anche da 24 anni, a Pordenone ben da 20 anni. Ogni farmacia è associata ad una struttura caritativa, per cui in ogni farmacia vengono raccolti esattamente i farmaci che vengono richiesti dalla struttura caritativa, quindi non ci sono né sprechi né avanzi. I farmaci più gettonati, diciamo così, sono comunque sempre i farmaci da banco, quelli che si possono acquistare senza ricetta, e sono naturalmente antidolorifici, antinfiammatori o antinfluenzali, ma noi consigliamo a tutti di entrare in una delle farmacie che espongono la locandina, che significa che la farmacia è aderente all'iniziativa, chiedere poi ai volontari e ai farmacisti i farmaci di cui c'è bisogno. Lo scorso anno in Friuli Venezia Giulia sono state raccolte quasi 20.000 confezioni. I medicinali hanno contribuito a curare oltre 13.000 persone con l'aiuto di 87 realtà caritative del territorio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora il meteo, il cielo è da sereno a variabile sulla regione, alle 11 c'erano 10 gradi a Trieste e Gorizia, 9 gradi a Udine, 6 gradi a Pordenone, a Tolmezzo 5, a Forni di Sopra 4, a Tarvisio 3 gradi, a Sappada 0, sul Piancavallo 2 gradi, sul Monte Lussari 0 gradi, sullo Zoncolan meno 2 gradi, sulla costa Lignano è grado 8 gradi. Queste le previsioni. Nelle prossime ore la nuvolosità in aumento, con cielo che in serata diventerà coperto, quando sarà possibile anche qualche debole pioggia sparsa su bassa pianura e costa. Domani, durante la notte, precipitazioni da deboli a moderate, meno probabili sulle Alpi, con quota neve intorno a 1300 metri. In giornata, cielo in genere nuvoloso, con qualche schiarita verso sera. Walter Sivilotti, musicista, compositore, arrangiatore e direttore artistico dell'Accademia Musicale Naonis di Pordenone, si prepara a debuttare come direttore d'orchestra al prossimo Festival di Sanremo, affiancando Simone Cristicchi sul palco dell'Ariston. Sivilotti è anche docente referente del Dipartimento di Popular Music al Conservatorio Tomadini di Udine ed è ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Ha ricevuto numerosi premi per le sue composizioni, tra cui il premio Anita Bucchi per il balletto Voglio essere libero, il premio Le maschere del teatro per il musical civile Magazzino 18 di Cristicchi. Inoltre ha scritto e arrangiato per alcuni dei più importanti nomi della canzone d'autore italiana e internazionale, da Elisa Milva, da Alice ad Antonella Ruggero. Cristicchi lo ha voluto al suo fianco per il ritorno in gara al 75esimo Festival di Sanremo con il brano Quando sarai piccola. Nella serata delle cover, inoltre, Cristicchi interpreterà La cura di Franco Battiato in duetto con Amara, una delle canzoni più applaudite dello spettacolo Torneremo ancora, il concerto mistico dedicato al cantautore siciliano ancora in tournée nazionale con i solisti della Naonis. Un atto unico di parole e musica per dare voce a una delle prime opere narrative di Pierpaolo Pasolini, Il sogno di una cosa, racconto di chi nell'immediato dopoguerra scappò in Jugoslavia per cercare un futuro migliore inseguendo il sogno del socialismo. È quello portato in scena questa sera e domani alle 20.45 al Teatro Comunale di Monfalcone dall'attore Elio Germano e dal musicista Teo Teardo, che ci racconta in questa intervista com'è nata l'idea dello spettacolo. Io sono circa 15 anni che lavoriamo assieme e abbiamo iniziato una quindicina d'anni fa con un lavoro su Selim, tratto dal suo capolavoro Viaggio a termine della notte, poi abbiamo lavorato al Paradiso di Dante e diverse altre cose, e in questo periodo stiamo portando in giro Il sogno di una cosa di Pasolini. Il debutto del tour è a Monfalcone, ma poi torneremo in regione il 28 febbraio, dove saremo al Palamostre a Udine. Come vi è venuta l'idea di scegliere questo testo di Pasolini e di portarlo a teatro? È un libro che mi ha sempre affascinato perché ha un aspetto interessante. C'è stato un momento in cui erano gli italiani, il libro è ambientato nel 48, erano gli italiani a scappare, a fare quella che era la rotta balcanica al contrario, cioè gli italiani che avevano problemi di fame, desiderio di una vita diversa, e cercavano di scappare. Questo gruppo di ragazzi, attratto dal mito del comunismo, ha fatto la rotta balcanica al contrario per finire in quella che era l'ex Jugoslavia, allora era ancora Jugoslavia, e il sogno lì si è infranto completamente. È il sogno di qualcosa che non succede, che esplode. E questo testo mi ha sempre in qualche modo toccato. E lo spettacolo come è pensato? Come funziona? È uno spettacolo prevalentemente da ascoltare. gli spettatori sono circondati da un numero abbastanza ampio di casse che trasmettono tutta una serie di registrazioni ambientali che ho effettuato proprio qui in regione, nei luoghi dove è ambientato il romanzo. Abbiamo realizzato attraverso dei laboratori che ha fatto proprio Elio con degli attori di teatro amatoriale, come se fosse un film, ha registrato tutte le varie battute di tanti personaggi che compaiono nel libro. Elio è il narratore, come se fosse Pasolini, e tutto questo avviene in un ambito sonoro che non prevede soltanto registrazioni ambientali ma anche molta musica. Alcuni appuntamenti: la compagnia La Trappola di Vicenza, ospite di scenario, stagione del Piccolo Teatro Città di Sacile, con le mirabolanti fortune di Arlecchino e peripezie dei comici dell'arte al Teatro Ruffo alle 21. Ad Azzano Decimo il premio in memoria di Claudio Puntaloro al Teatro Marcello Mascherini, prima dello spettacolo Aladdin, un musical organizzato in ricordo di Claudio a cura del padre Andrea. Il premio Puntaloro è dedicato ai giovani dagli 11 ai 29 anni di età di Azzano Decimo che si sono distinti per azioni di solidarietà, altruismo, fair play e generosità. A Pordenone, al Circolo Libertario Emiliano Zapata di via Ungaresca, pièce teatrale alle 20.30, forse Nosibì alle 21.30, musiche e danze con associazione Tiare, inoltre una mostra fotografica sullo sterminio nazifascista dei romani Rome Sinti. Al Teatro Miela di Trieste un doppio concerto, Carlo Poddighe con il suo progetto Superego e Frank Sinutre, duo di musica elettronica. Inizio alle 21.30. Ancora alcuni appuntamenti, primo incontro di storie di scienza e salute alla libreria Lovat di Trieste, in collaborazione con il Master in Comunicazione della Scienza della SIS, il cardiologo Gabriele Bronzetti presenta Nel cuore degli altri, quando arte, musica, letteratura e cinema aiutano a raccontare la medicina, alle 18. Secondo appuntamento per Spremuti come limoni, evento dell'associazione musicale Gabriel Fauré. Andrea Appi, attore comico dei Papu, converserà con Emanuele Lachin nel salotto della Largo Cervignano Concert Hall a Pordenone. Inizio alle 21. Al Centro Balducci di Zugliano, Il popolo e la rivoluzione a cura della Fondazione No Profit Darsi Pace, Marco Guzzi, alle 17.30. Quarto appuntamento delle conversazioni a ragion veduta che il Circolo di Pordenone dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti organizza nella propria sede. Alle 17 in via Stradelle, in Come si gestisce un podcast, i casi di Radio Cicap e Clorofilla, verrà illustrato il dietro le quinte della preparazione di episodi di podcast divulgativi, con Elisa Baioni e Diego Martin della redazione di Radio Cicap e Davide Franzago, uno dei curatori del podcast ecologista Clorofilla. A Trieste, tra storia, simbolismo e divinazione, secondo incontro del ciclo di conferenze La Via dei Tarocchi all'Associazione Archeosofica di Via Crispi alle 17.30. All'ospitale di San Tommaso di Maiano la presentazione del libro Contro, 10 storie minime di sport di Paolo Patui. L'autore dialoga con Fabio Martinis alle 18. A Buia, presentazione del libro Nomi di Pietra tra storia e memoria, che racconta attraverso documenti in gran parte inediti la storia del paese durante l'occupazione nazista, promosso dall'Associazione Culturale Il Tomata alle 19.15. La rubrica della TGR, domani su queste frequenze, dopo il giornale radio della domenica, torna Vita nei Campi, la trasmissione dedicata ad agricoltura ed enogastronomia. Sentiamone un'anticipazione. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura le principali novità delle prove orticole 2024 dell'ERSA. A seguire l'importanza non solo alimentare delle uova nella società contadina friulana. Suggerimenti e inerbimento sottofila di fruttiferi e viti. Seconda puntata sulla storia e declino della canna da zucchero. E ancora nella rubrica del vino, come riconoscere e difendersi dagli attacchi di batteri nocivi in cantina, la sconosciuta e misteriosa foresta del Monte Rest nella rubrica degli alberi e in conclusione andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E sempre domani sulla terza rete televisiva Rai alle 11.05, sul primo canale radiofonico alle 6.05, andrà in onda una nuova puntata della rubrica Est-Ovest. Ecco una scaletta degli argomenti. Nella parte turca di Cipro fiorisce il mercato delle università private, i cui diplomi spesso non sono riconosciuti. In Romania cresce la polemica per le elezioni presidenziali annullate per le interferenze degli hacker russi. Il giorno del ricordo, le testimonianze e le rivendicazioni degli esuli e degli italiani rimasti in Croazia e Slovenia. Nella capitale albanese Tirana, il centro dell'ordine musulmano Bektashi sta per diventare uno stato sovrano. In Puglia, il turismo dell'olio attira sempre più visitatori dall'Europa orientale. Tutto questo è Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. In regia Mauro Ciccarelli e Paolo Cassano, in redazione ha collaborato Daniela Sossi, da Daniele Lettige e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.